na cubana baleira, cubana cucubana baleira, na cubana baleira. Non sono mai stato a Cuba a bere rum di sera in una cubana balera nella terra banera. Portami a ballare a Cuba, che voglio evadere da questo mondo troppo civile, da questo stile ostile. Vorrei ricredermi, l'ho visitata con Google Earth nella passata pandemia. Ho fatto tardi la sera cantando Guantanamera. Ci sono stati anche Rolling Stone e Adelmo Fornaciari. C'è stata pure mia zia per ammirare la luna o per trovare fortuna. Ma io no, non sono mai stato a Cuba. Non sono mai stato a Cuba. Non sono mai stato a Cuba e me la sto inventando. L'evasione è un'esigenza, fuggire dall'appartenenza. Pensare con, scegliere senza. In questi tempi di miseria la nobiltà è una cosa seria. Avere tempo di annoiarsi, accorgersi che fuori piove di brutto mirando il mare. Manuela, Manuela, suele pensar per el suelo, suel su resto per te pera, spera de pedo de adero, de pedo de adero. Ci sono stati anche Rolling Stone e Adelmo Fornaciari. C'è stata pure mia zia per ammirare la luna o per trovare fortuna. Ma io no, non sono mai stato a Cuba. Non sono mai stato a Cuba. Non sono mai stato a Cuba. La cubana balera, cubana cucubana balera, la cubana balera. Ci sono stati anche Rolling Stone e Adelmo Fornaciari. C'è stata pure mia zia per ammirare la luna o per trovare fortuna. Ma io no,